con Tiziano Panici, una delle anime, uno dei curatori di Over Emergenze Teatrali a Roma, Teatro Argo Studio, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 maggio 2019. Tiziano, ben trovato. Grazie dell'anima, mi piace molto come appellativo, mi piace sentirmi anima. Raccontaci tutto. Beh, allora, intanto ben trovato, mi fa sempre piacere quando c'è la possibilità di passare su Radio Onda Rossa e raccontare un po' quello che facciamo, perché il tuo lavoro è prezioso e negli anni hai documentato tutto quello che accade sul tessuto culturale di questa città, dedicando anche sempre ampio spazio ai luoghi off della città, e Argo è uno di questi, possiamo anche dirlo, ormai uno dei pochi rimasti, e non è una bella cosa per quanto mi riguarda. E il suo compito ancora oggi rimane quello di essere comunque una palestra aperta e una finestra per tutte le realtà emergenti che tentano di affrontare il Mare Magnum di Roma, appunto per riuscire a raccontare il proprio percorso. E Over nasce proprio con questa esigenza qui. Sono molto contento perché da quando abbiamo avviato il progetto Dominio Pubblico, che poi stiamo portando avanti in collaborazione col Teatro di Roma, è la prima rassegna di fine anno per artisti emergenti che recupero all'Argo a distanza di 2 o 3 anni in cui mancava un appuntamento del genere. Quindi questo per me già è un risultato importante. E l'artista è una specie rara da proteggere, così abbiamo intitolato il claim di questa nuova operazione. È un'operazione che vede fra l'altro un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza di Roma, del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religione, Arte e Spettacolo, che seguirà passo passo tutti i lavori di queste 9 giovani formazioni artistiche. Le documenterà, le registrerà, facendo una specie di identikit di questi gruppi teatrali. Sono tutte emergenze, quindi diciamo sono tutti ragazzi che sono ancora in una fase di affermazione, ma che stanno portando il loro lavoro in area professionistica e quindi che di questo lavoro, del lavoro spettacolo, ci vorrebbero vampare. Per questo motivo tutto il progetto viene curato in collaborazione con Dominio Pubblico e con Argo Produzioni, ovvero la nostra anima produttiva, quella che poi gli spettacoli li realizza e li distribuisce in tutta Italia. Quindi Francesco Frangipane, che è il mio socio e compagno di viaggio da sempre, parteciperà a tutta questa operazione anche per, come dire, valutare insieme alle compagnie quali potrebbero poi eventualmente continuare un percorso con l'Argo. Quindi fare in modo che Argo possa essere anche una sorta di incubatore di queste nuove realtà. Come saranno architettate queste due sessioni di lavoro? Allora, intanto sono praticamente i 2 fine settimana che tu hai annunciato, quindi il primo inizia subito dopo il 1º maggio, quindi dal 2 al 5, dal giovedì alla domenica ci trovate al Teatro Argo e è facile da ricordare perché gli spettacoli sono tutte le sere alle ore 20 e 30. Iniziamo il 2 maggio con Non Plus Ultra che fa una residenza qui da noi in questi giorni, Adriano Pantaleo con Gianni Spezzano, due ragazzi molto in gamba che lavorano al NEST di Napoli, una realtà davvero interessante che merita di essere conosciuta. Il 3 maggio entra 200 Decibel dei Matuta Teatro, che invece vivono sulle colline intorno a Latina, a Sezze, e sono uno dei teatri più attivi del Lazio. Il 4 maggio entra Danilo Giuva della compagnia di Licia La Nera, che spero insomma gli ascoltatori conoscano perché è una delle artiste più attive in Italia dal punto di vista dell'innovazione, con un testo di Annibale Rucello, Mamma. E il 5 maggio sono Le lunghe notti di Valerio Paroni e Alice Occhiali, che sono ispirate a Into the Wild, il famoso film di Sean Penn. Questa è la nostra prima settimana. La seconda settimana ha la stessa formazione, cioè siamo sempre in scena alle 20:30 dal giovedì fino alla domenica. Il 9 maggio Il Pianeta, che è una specie di fanta comedy messa in scena, scritta e diretta da Giacomo Sette. Il 10 maggio invece uno dei ragazzi che è stato tirato fuori dal vivaio di Dominio Pubblico, Alessandro Blasioli, un'altra, come dire, scoperta che fa un teatro molto vivo, vivissimo. Il suo è un spettacolo che parla del terremoto dell'Aquila, questa è casa mia. L'11 maggio ospitiamo la compagnia Unterwasser, che è reduce dal successo di Out, uno spettacolo di teatro di figura che ha girato in tutto il mondo e è stato ospite questo autunno a Roma Europa Festival, e presentano la loro nuova opera, sempre fatta di oggetti, di luci, di suggestioni, si chiama Maze, lo spettacolo, e concludiamo il 12 maggio con una doppietta di due autori, quindi dedicata proprio alla nuova drammaturgia. Il primo frammento è alle 17.30, testo e regia di Paolo Tommaso Tambasco, titolo Due amiche, e concludiamo con I mostri benedetti di Lucrezia Coletti, che si affianca all'autrice Sandra Lucentini, giovane anche lei. Ecco, questo è il nostro excursus, quindi un bel viaggio direi. Ti lasci anche i riferimenti web per seguire tutto? Certo, per diciamo i più over c'è sempre la nostra pagina Facebook, che è sempre aggiornata e in cui trovate tutti i materiali anche di presentazioni dei gruppi, quindi se qualcuno in ascolto è incuriosito e si collega adesso alla pagina di Teatro Argo Studio, troverà anche i video racconti delle compagnie e gli eventi in cui sono segnati tutti gli orari, tutti i costi e tutte le informazioni utili, e ovviamente se volete invece avere un contatto diretto ci scrivete a info@teatroarcostudio.com oppure chiamatelo 0658981111. Per i più giovani e under invece potete tranquillamente seguirci anche su Instagram e trovate lo stesso tipo di informazioni. Ricordatevi soltanto Teatro Argo Studio. Benissimo, allora ricordiamo Over, emergenze teatrali a Roma al Teatro Argo Studio dal 2 al 5 maggio e dal 9 al 12 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Tiziano Panici. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico a te e grazie a Onda Rossa, come sempre. Un abbraccio.